giornate vanno via, sale la malinconia, cercavo di vederti, amore mio. Dentro un senso di rivolta, dietro una serata storta, è un pensiero che non va più via. Questa vita passa e va, ma qualcosa è, chi lo sa, può salvare questi sogni miei. Un destino è una città, o una storia senza età, come un sole che non tramonta mai. Canzone di niente, questa qui, per guardarsi dentro un po' e volare, perché no? Solo con la fantasia cerco te, anima mia, ma il destino ti ha portato via. E capire questo sì, che è sbagliato solo tu, ma purtroppo sei fuggita via. Canzone di niente questa qui, che passa e scorre via così, senza esserci incontrati mai, senza esserci incontrati mai, senza esserci incontrati mai. Questa vita passa e va, ma qualcosa, chi lo sa, può salvare questi sogni miei. Un destino è una città, o una storia senza età, come un sole che non tramonta mai. Le giornate vanno via, sale la malinconia, cercavo di vederti, amore mio. Dentro un senso di rivolta, dietro una serata storta, è un pensiero che non va più via. E capire questo sì, che hai sbagliato solo tu, ma purtroppo sei scappata via. Canzone di niente, questa qui, che passa e scorre via così, senza esserci incontrati mai. Canzone di niente, questa qui, che passa e scorre via così, senza esserci capiti mai, senza esserci voluti mai, senza esserci incontrati mai, senza esserci incontrati mai, senza esserci incontrati mai.